La Zanzara con Alessio Maurizi. 18 e 7 minuti, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati. Anche questa sera staremo insieme fino alle 20:30 all'824 0024 per intervenire in diretta. 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. Anche questa sera in compagnia del sottoscritto, e di Diego Rovelli, di Franco Piantanida in redazione e di Pietro La Corta in regia. La Corte. Pietro, facci sentire subito i titoli di Sky TG24. La Merkel contro Berlusconi, ma Quirinale e Berlino smentiscono il Wall Street Journal. Giro di vita su corruzione e abuso d'ufficio, guarda sigilli, prepara la riforma. Allo studio l'imposta su alcol e cibo spazzatura, contrari i gestori di locali. La Spagna più indebitata del previsto, Rajoy mantiene congelati gli stipendi. È morto l'ex ministro Tremaglia, una vita a destra, la Salò a future libertà. Fine d'anno senza botti tra sequestri e divieti. Ufficiale, Ancelotti al Paris Saint-Germain, sono qui per fare bene in Europa. X Factor, fuori Nicole e Jessica che confessano, adesso tifiamo per i moderni. E senza benzina o gasolina. Spendi, spandi, dice la canzone di Rino Gaetano, e in effetti in questi momenti, in queste ore di fine d'anno si fanno i conti tra la manovra, i rincari che scattano con la fine dell'anno e l'anno nuovo, autostrade, benzina, tutti guardano alle tasse che mette il governo Monti, però attenzione cari amici italiani, perché in realtà le botte alle tasche di noi contribuenti arrivano da tutte le parti, ci sono notizie incredibili da tutte le parti, cominciamo a leggerne alcune. Per esempio a Napoli, la tangenziale di Napoli aumenta il pedaggio del 6%, il pedaggio passa da 85 a 90 centesimi, e annuncia il presidente della tangenziale di Napoli, che è, tenetevi forti, Paolo Cirino Pomicino, quello che è stato ministro e parlamentare un migliaio di volte, dice no, ma sono aumenti in linea con l'inflazione dell'1%, e invece no, perché fatti i conti, da 85 a 90 centesimi l'aumento è del 6%, molto di più dell'inflazione. Poi c'è il caso dei sogni aeroportuali di due regioni, il Lazio e la Calabria, e anche qui volano milioni di euro, perché come documenta oggi Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, c'è il caso del Lazio, dove la presidente della regione Renata Polverini, che ha già fatto incavolare mezza Italia per la questione dei vitalizi agli assessori esterni, adesso investe sull'aeroporto di Frosinone 1.300.000 euro, contro tutto, contro il parere per esempio dell'ENAV, che dice che bisogna puntare su Viterbo come terzo scalo della regione, ma niente da fare, siccome in giunta ci sono esponenti politici del PDL legati a questo progetto, e non solo del PDL tra l'altro, anche del PD da anni, e allora la Polverini finanzia uno scalo che non serve a nulla, e tra l'altro in Italia di scali che non servono a nulla ce ne sono molti, come ricorda proprio Rizzo in questo articolo, perché ne abbiamo 51, il doppio che in Francia, e con anche quelli militari arrivano a 96, però meno della metà superano i 10.000 passeggeri all'anno, cioè 27 passeggeri al giorno. Immaginatevi cosa vuol dire un aeroporto con 27 passeggeri al giorno, soldi buttati via. Poi c'è il caso ancora più clamoroso, qua siamo all'annuncio, non so se qualche calabrese ha notizie in più di noi, il presidente della regione Scopellitti ha annunciato che vuol finanziare l'aeroporto di Sibari, il progetto dell'aeroporto di Sibari, molti non sanno nemmeno che esisteva Sibari, con 30 milioni di euro. Ma la cosa straordinaria è la motivazione, Scopellitti ha detto che il vero problema della Calabria è, tenetevi forte, l'isolamento. cioè non l'andrangheta o la disoccupazione, no, il problema della Calabria è l'isolamento, quindi ci vuole un aeroporto, in particolare quello di Sibari. Questa cosa qua di Scopelliti, che è straordinaria, ci fa venire in mente la citazione del celebre film di Benigni. Una terribile, e lei sa a cosa mi riferisco, l'Etna. Il vulcano che quando si mette a fare capricci distrugge paesi e villaggi, ma è una bellezza naturale. Ma c'è un'altra cosa, e questa è veramente una piaga grave che nessuno riesce a risolvere. Lei mi ha già capito, è la siccità. Da queste parti la terra d'estate brucia. Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo. Dov'è? E nella terza è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È il traffico, troppe macchine. Chi siano non lo so, gli strani ometti blu sono alti su. Chi siano non lo so, gli strani ometti blu sono alti su per giù. Mandiamo un saluto al Presidente della Repubblica. D'altra parte, nomine, Napolitano, che si chiama Napolitano. Ah no, non sapevo che era Terù. Riparata dalla selva, dal deserto, dai monti e dal mare. Son case buffe. Bossi e la Lega si sono ridotti un po' come i puffi, cioè ci fanno una grande tenerezza e ci ricordano la nostra infanzia. Siamo cresciuti con le frasi di Bossi sulla secessione, sui Terun, su Roma ladrona, però adesso che sono passati 20 anni, Bossi, queste cose qua non spaventano più nessuno, semmai appunto fanno tenerezza, sembrano cose fuori dalla storia, fuori dal tempo, un po' come quando quelli di Rifondazione Comunista dicono che vogliono lottare contro il capitalismo, cose proprio che pensavamo di avere dimenticato. Amici hanno già... Ma insomma, la tenerezza di Bossi anche quando insulta Monti. E magari gli piace così. E diventerò un cuore. Ma i puffi hanno già 300 volte più scacciato questi qua, lontano dalla città. Vai in commissione a fare lezioni. Le lezioni di economia, solamente che le sue lezioni non funzionano, si riduce solo ad aumentare la tassazione sul nord, e anche un cretino capirebbe che se aumenti le tasse la gente ha meno soldi, spende meno, si produce meno, e poi la solita solfa, alla fine sto nord deve sempre pagare per sta Italia. Ma chi cavolo, mica l'abbiamo voluta noi, anche se abbiamo fatto lo sbaglio di non opporsi quando l'hanno fatto. Savoia, centaglia, brutta centaglia. I Savoia, Bossi, basta i Savoia, ma come, ancora coi Savoia, stiamo lì a guardare i Savoia. Non bastano neanche i puffi, bisogna andare ancora più indietro. E va bene, adesso però siamo alla pausa per il traffico e torniamo tra pochissimo. Dichiarazioni naturalmente che insomma hanno lasciato il segno, secondo qualcuno, queste accuse a Napolitano. E poi domani c'è il discorso del capo dello Stato e tutta la Lega ha detto che non lo ascolterà, ma saranno in compagnia credo di tutti gli altri italiani che senza dirlo non ascolteranno Napolitano. Sì, sì, sì. Dice sì e c'è chi dice no alle parole del Presidente del Consiglio Mario Monti, tutti i politici hanno commentato, c'è un coro di distinguo, in realtà Monti non ha detto moltissimo, è stato anche piuttosto evasivo, ma tant'è, i commenti, cominciamo con Cicchitto del PDL. La mia impressione è che sono stati indicati i titoli di una fase nuova che dovrebbe essere quella della crescita, e i titoli sono liberalizzazioni, privatizzazioni, interventi sul mercato del lavoro. Quanto ai titoli ci stiamo, Poi invece bisogna vedere la materia, la sostanza di questi titoli, e su quello ci riserviamo evidentemente la valutazione, perché sul merito il presidente non è intervenuto. Per Di Pietro invece è stato, più che una conferenza stampa di fine d'anno, un carnevale. Allora a me pare che abbiamo già visto un presidente del Consiglio che sapeva vendere se stesso i suoi provvedimenti prima ancora che li faceva. Adesso abbiamo bisogno di un presidente del Consiglio e di un governo che prima fa le cose e poi le illustra, ma dichiarare di averle fatte senza neanche riuscire ad annunciare in che cosa consistono ci sembra un po' una trovata più che da fine anno, da carnevale. Continua la politica delle televendite del Presidente del Consiglio, che magnifica i suoi decreti dandogli egli stessi il nome, da Salvi Italia a Cresci Italia, salvo aggiungere che in quest'ultimo caso neanche ci ha detto come vuol farlo crescere. E adesso sentitevi le dichiarazioni quasi fotocopia di Marco Rizzo, ex comunisti italiani, adesso non so più esattamente quale frangia dei comunisti italiani rappresenti, e Matteo Salvini della Lega. Cominciamo con Rizzo. Verranno immolati sull'altare chi? I tassisti? I benzinai? Sono queste le grandi liberalizzazioni? Toccheranno i petrolieri? Lei ha informazioni di questo? Toccheranno i grandi banchieri? E ora Salvini. Penso tutto il male possibile, perché se il Salva Italia ha tolto 20 miliardi di euro dalle tasche dei pensionati, degli automobilisti e dei proprietari di casa, il Cresci Italia pensa di far crescere il paese tartassando taxisti e farmacisti. Insomma, questa è una breve carrellata, più tardi magari sentiremo qualche altra voce dopo la conferenza stampa di Mario Monti, 3 ore quasi di discorso, e oggi sui giornali c'è un, non voglio dire un coro di stroncature per il discorso di Monti, ma insomma abbastanza, perché quasi tutti sottolineano che è stato elusivo rispetto ai temi e anche alle domande. Qualcuno dice è riuscito a non rispondere a 24 domande, non so se erano proprio 24, e in questo coro appunto di noia che viene sottolineata rispetto allo stile molto diverso di Monti rispetto a quello che erano le conferenze stampa sicuramente più scoppiettanti di Berlusconi, si distingue invece Anna Maria Testa, esperta di comunicazione che abbiamo qui questa sera con noi. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Che invece mi pare di capire in un'intervista ha promosso lo stile comunicativo di Monti. È interessante, ci spieghi perché? Ma devo dire che personalmente io ascolto Monti con sollievo, ma questo è un mio atteggiamento personale e non fa ovviamente a te. Cerco invece di raccontare che cosa mi sembra interessante la comunicazione di Monti. Prima di tutto ci mostra che un altro modo istituzionale di comunicare è possibile, al di là dei due modi che hanno tenuto banco in questi ultimi anni, il modo piacione e il modo aggressivo. Già il fatto che ci siano altre maniere di comunicare mi sembra interessante. Vorrei poi aggiungere che la comunicazione, per essere efficace, deve avere tre caratteristiche, deve essere comprensibile, consistente. Abbiamo un problema di linea con Anna Maria Testa, vediamo se riusciamo a sentirla, magari non so se lei si sta spostando, magari gli chiediamo. È da qualche parte dove non si sente, non so se può fermarsi o uscire da questo buco dove non si sente. Vediamo se c'è? No, in questo momento, perché tra l'altro lei citava la comunicazione precedente, aggressiva e piaciona, avrei voluto chiederle adesso, ce l'abbiamo? No, la recuperiamo. A chi si riferiva con quella aggressiva, credo che fosse Berlusconi, forse anche col piacione. Perché tra l'altro sui commenti di oggi, sui giornali, c'è Luca Telese sul fatto che invece si distingue e dice baci e applausi, il tecnico diventò piacione, e sottolinea come Monti con il suo stile sommesso però abbia fatto una serie di battute, provocando sì anche l'ilarità dei giornalisti presenti. Non abbiamo Anna Maria Monti, no, La ripeschiamo tra poco. E allora, fra poco, anche con gli ascoltatori, naturalmente all'824 0024, abbiamo però i titoli del TG2, allora sentiamoli. La borsa oggi chiude in rialzo un brutto anno, il differenziale fra i titoli italiani e quelli tedeschi continua a salire e il prezzo della benzina raggiunge un nuovo record. Una nota del Quirinale smentisce il Wall Street Journal, secondo il quale la Merkel avrebbe chiesto a ottobre un cambio di governo in Italia. Berlino conferma la ricostruzione del Quirinale. È morto a 85 anni l'ex ministro Mirko Tremaglia, storico esponente della destra italiana, fu promotore della legge che ampliò il diritto di voto agli italiani all'estero. Milioni di italiani in viaggio per il fine settimana di Capodanno, nonostante gli annunciati aumenti di autostrade e carburanti, tempo incerto ma tende al bello. Lo stile di comunicazione di Mario Monti, secondo molti giornali, uno stile di chi ha evaso molte domande, ha parlato di pochi temi, sicuramente molto più blando, molto, anche secondo molti giornalisti che poi non lo dicono, però noioso, perché in effetti le conferenze stampa di Monti sono più noiose di quelle di Berlusconi, e c'è poco da fare, poi però naturalmente si può dire che il momento è grave e in tempi di spread è più facile essere seri che essere piacioni, e questa è sicuramente una parte della spiegazione. Ne stavamo parlando con Anna Maria Testa, tra poco la recupereremo. Prima però un ascoltatore, Luca da Genova, buonasera. Oh, pronto, buonasera. Niente, io volevo parlare soprattutto sulle liberalizzazioni e sul problema della cassa, le casse di qua. Dico, sarei contrario a tutte le liberalizzazioni, sono contrario per come vengono fatte in Italia, perché in pratica vogliono liberalizzare i tassisti, vogliono liberalizzare, hanno già liberalizzato il commercio, vogliono liberalizzare anche gli ordini di avvocati, dei professionisti, quando abbiamo le due banche principali italiane sono controllate dalle stesse persone, quindi zero concorrenza. Ma lì Monti non se ne accorge, eppure un banchiere dovrebbe sapere queste cose qua. E poi abbiamo tanti altri servizi che non funzionano in Italia, che sarebbero da privatizzare, prima di colpire sempre i soliti privati che devono lavorare tutti i giorni per pagare gli stipendi a questa gente che lavora, tanti che poverini, tanti lavoratori che meritano gli stipendi e tanti invece che non lo meritano, tanti che sono lì per conoscenza, tanti come soprattutto in Sicilia sono lì messi da Cuffaro, da Lombardo. Lombardo, che era mafioso quando era con Berlusconi, è diventato uomo di buona volontà quando è andato contro Berlusconi. L'altra sulle caste, la casta peggiore credo che sia quella vostra, quella dei giornalisti, quelli come voi che avete i padroni che vi pagano, sono della valle, Montezemolo, quelle persone non vengono mai toccate. E il mio problema è, non capisco come mai, gente come Parenzo, che prende 135.000 euro l'anno scorso, ha preso gente come Cruciani 160.000 euro, gente come si chiama quello che fa Piazza Pulita, che parla tanto della casta? Formigli, che era un guappo, sì, di Santoro, che ha dichiarato, sì, 220.000 euro pagati dagli italiani, quello prende 100.000 euro più un parlamentare. Beh, io preferisco che li prenda 120.000 euro un parlamentare, e non voglio che li prenda Formigli o tutti i giornalisti che lavorano in Rai pagati da noi. No, in regia mi fanno notare giustamente che Formigli non è pagato dagli italiani, è pagato dalla Sette, perché è un dipendente privato. Comunque grazie. Anna Maria Testa, l'abbiamo recuperata. Eccoci qua. Incrociamo le dita. Sì, incrociamo le dita. Speriamo adesso la sentiamo benissimo. Ci stava dicendo come lei ascolta con sollievo i discorsi di Monti e che dice finalmente si può ascoltare qualcosa di diverso da una comunicazione, lei diceva, aggressiva e piaciona che avevamo fino ad oggi. Ci spieghi meglio? Dico che Monti riesce a fare tre cose che sono opportune e che garantiscono una comunicazione efficace e comprensibile, è consistente e competente ed è anche congruente con la situazione storico-economica in cui non c'è tanto da ridere. E sopra, probabilmente non ha promesso. Sì, mi sa che siamo sfortunati che non, continuiamo a non sentirla. Allora facciamo così, sospendiamo l'intervista momentaneamente perché non si sente niente. Andiamo avanti con gli ascoltatori e poi, appena possibile, recuperiamo Anna Maria Testa. È Enzo da Viterbo, buonasera. Enzo? Non c'è. Paolo da Varese, buonasera, dalla provincia di Varese. Pronto, buonasera. Prego. Grazie di avermi richiamato. Volevo proporre un quesito giuridico, ovvero se si rivelassero corrette, veritiere, le affermazioni del, mi sembra, Wall Street Journal, che Napolitano ha ricevuto praticamente l'imposizione da parte della Merkel di cambiare il nostro Premier, si potrebbe configurare un alto tradimento del principio della sovranità nazionale, nel senso che il capo dello Stato a questo punto, attenendosi ad un'indicazione di un altro capo di Stato, di un premier di un altro paese, potrebbe esserci un altro tradimento, solo questo. Chi lo sa, credo però che tutta questa vicenda qua, perché il Wall Street Journal ha scritto questo articolo, perché può darsi che ci sia un fondamento sicuramente di verità. Il punto però è che la Merkel non ha imposto niente a nessuno, non credo che abbia armi di ricatto per imporre qualcosa all'Italia. Può darsi che, anzi sicuramente, questo lo sappiamo tutti, c'erano delle pressioni internazionali, ma anche in Italia, per le dimissioni di Berlusconi. C'era lo spread che non rientrava, vuol dire miliardi di interessi sul debito pubblico che l'Italia stava accumulando, e sicuramente questo era sotto gli occhi di tutti. Che poi la Merkel abbia auspicato la soluzione delle dimissioni di Berlusconi e sia arrivato Monti, questo l'abbiamo visto tutti, ma con il consenso dello stesso Berlusconi che attualmente sostiene il governo Monti. 18 e 33 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua, ritrovati insieme in diretta fino alle 20:30, dato che oggi è il 30 dicembre e quindi domani è l'ultimo giorno dell'anno. Non potevamo anche noi esimerci dal fare la nostra carrellata di idee, fatti, personaggi dell'anno. Vi prometto che è brevissima e quindi tollerabilissima, un po' come un inframuscolo, e allora sentiamo alcuni passaggi, dato che siamo una radio, vocali, legati soprattutto agli avvenimenti politici di questo 2011. Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi sull'infedele. Sto vedendo una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Allora lei ha già insultato abbastanza. Ho sentito delle tesi false. Perché non va dai giudici invece di insultare? Lontano dal vero, distorte. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Se si rompe quel patto, io sono pronto a dimettermi da Presidente della Camera nello stesso momento in cui Berlusconi si dimette da Presidente del Consiglio. È arrivata la fine dell'Italia, questa è la verità. Abbiamo i debiti enormi fatti dai socialisti, dai comunisti, dai democristiani. Ho scovato una casa bellissima di fronte a Cala Francese, si chiama Due Palme e l'ho comperata. E io ho dato l'incarico di darle questi soldi per sottrarla a qualunque necessità, e quindi esattamente per la direzione contraria e il fine contrario, non costringerla alla prostituzione. C'è una vecchia pratica da sbrigare. Berlusconi deve andare a casa. O ci va da solo o ce lo manderemo noi. Consentire il varo urgente di queste misure di stabilità e poi dopo dare le dimissioni. Mai usato né il termine lacrime né il termine sangue, termine sacrifici forse sì. E sulla musica suggestiva di 2001, Odissea nello spazio, abbiamo fatto una specie di 2011 cronaca della fine di un governo e della nascita di un altro. La cosa più straordinaria in questi frammenti audio è: ma cari amici di Lampedusa, che fine ha fatto? Avete notizie della casa di Berlusconi che aveva comprato a Lampedusa? Esiste? O anche questa è ormai storia? Michele, dalla provincia di Lodi, buonasera. Michele, ci sente? Pronto? Sì, pronto. Eccolo qua. Michele, buonasera. Quello di Lodi, perché ce n'è anche un altro di Pisa, se abbiamo fatto, poi chiamiamo anche quello. Prego. Io sono di Castiglione d'Adda, provincia di Lodi. Fantastico. No, il mio sindaco giovanissimo di 32 anni da Co mi trucida dopo. No, per no, così Castiglione poco, d'Adda, stiamo attenti, siamo un po' provinciali, sì. Noi siamo della bassa, perciò è così. Niente, mi scusi, io la chiamavo, sì. Perché come diceva la sua collega, noi stiamo combattendo quei 900 poveri cristi che stanno lì nei palazzi romani, no? Quei signori lì, secondo me, sono dei sindacati. Perché? Perché rappresentano una cosa come 17-18 mila bellissimi posti di lavoro, che sono le persone che stanno subito dopo loro, però quelli fissi, quelli che non vengono eletti, quelli che non... commessi, ragionieri, creative. Guardi, a Roma ci lavora, se leva a Roma l'80% lavora per lo Stato, perciò automaticamente si rende conto cosa c'è dietro questi signori qua. Se dobbiamo tagliare il 50% di quei signori su, bisogna tagliare anche questi famosi 18.000 posti di lavoro, che sono posti di lavoro fra l'altro che vanno dai 2.000 ai 20.000 euro di un capo commesso. Lei cosa ne dice? Come mai non ne parlano? Come mai si stanno caricando tutti loro la colpa, facendo finta di niente? Come si stanno caricando? Chi si sta caricando la colpa? I signori parlamentari se ne stanno facendo dire di tutti i colori, se lei vede i blog su Facebook, eccetera, eccetera, li stanno proprio massacrando. Ma chi c'è dietro? Purtroppo sono quelli che sono l'osso duro, che noi non riusciremo mai a buttare giù. Sono tutti quei signori statali che lavorano lì. Guardi, questo discorso qua degli statali, anche l'altra sera un ascoltatore invitava a tagliare 1 milione di dipendenti pubblici, fare come in Grecia. Io ho buttato lì una statistica: in Italia c'è lo stesso numero di dipendenti pubblici che in proporzione rispetto agli abitanti che negli altri paesi europei, quindi questo mi sembra una statistica che sgomberi un po' il campo dagli equivoci. Che poi la pubblica amministrazione sia tutt'altro che efficiente, quella italiana, spesso e volentieri è tutt'altro problema. Però non credo che la soluzione sia mandarli a casa. Non avremo più alcuna amministrazione, alcuna giustizia, alcuno Stato. Bisogna farli funzionare, i servizi pubblici. Questo per quanto riguarda la quantità e anche la qualità. Sul discorso dei politici di professione, è vero, ce ne sono troppi, qualcuno ha fatto dei calcoli. E questo governo qua si è impegnato ad abolire i consigli provinciali, le giunte, adesso non ricordo neanche più francamente, è un momento di vuoto, però un annuncio su questo è stato fatto. Poi c'è sempre chi si oppone, perché giustamente lei diceva ci sono a Roma migliaia di persone che vivono di parastato, queste persone quando poi si parla di tagliare ovviamente si oppongono e poi votano queste persone, quindi per non perdere anche il consenso, e questo è anche un po' il cortocircuito tutto italiano. Abbiamo, riproviamo, Anna Maria Testa, esperta di comunicazione, buonasera. Parliamo di comunicazione, cade la linea qui, che vuol dire. È un segnale non proprio brillante. Allora, riprendiamo, non so più da dove l'avevamo interrotta. Insomma, stavo commentando la conferenza stampa di Monti, mediamente stroncata sui giornali per il fatto che non ha risposto alle domande, non è andato sui contenuti, e anche per il fatto che lo stile di comunicazione di Monti, definito da molti un po' spento, lei invece trovava spunti positivi nello stile comunicativo di Monti. Sì, riprendo e ripeto, non è necessario che una comunicazione istituzionale, quella del Presidente del Consiglio, sia o aggressiva o piaciona come quella che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni. Esistono altri stili possibili, fra l'altro stili più contemporanei e più cosmopoliti, meno provinciali, e mi sembra che lo stile di Monti vada in questa direzione. In secondo luogo, non ho capito perché il Presidente del Consiglio, chiunque sia, deve porsi il problema di intrattenere i cittadini o i giornalisti. Il suo compito è dire delle cose, dirle in maniera consistente, comprensibile, congruente con la situazione, l'esperienza delle persone e l'atmosfera sociopolitica del momento. Mi sembra che Monti faccia tutto questo, c'è poco da dire, sarebbe incongruente se si ridesse. Ecco, questo mi sembra un punto cruciale, perché anch'io penso lo troverei fuori luogo, insomma, cioè, no? Sì, possiamo dire che diciamo il modo di comunicare di Berlusconi, che era tutto basato sulla sua tecnica di venditore, sul far sognare e sul mandare messaggi, comunque lui l'ha sempre detto, anche di ottimismo, positivi eccetera, è andato a scontrarsi contro una realtà che oggi è di tutt'altro aspetto, con appunto la crisi economica e dello spread che tutti sappiamo, e quindi diciamo che Berlusconi non è più attuale da questo punto di vista, è più attuale Monti. Assolutamente sì, voglio dire, non c'è una ricetta buona per tutte le persone, per tutti i ruoli e per tutte le stagioni. Dal punto di vista della comunicazione politico-istituzionale è come se avessimo mangiato patatine col ketchup per un sacco di anni. Ed è venuto il momento dei broccoli, ci piaceranno di meno ma ci fanno meglio. Senta, ma lei che è un'esperta di comunicazione, bisogna preoccuparsi anche di chi riceve la comunicazione, no? Non soltanto di chi la emette, in questo caso Monti. Ma secondo lei c'è un'Italia, visto che Monti parla per spiegare, come dice lei, per cercare di entrare anche nei fatti, c'è un'Italia, in Italia un'opinione pubblica, un pubblico che vuole ascoltare, lasciarsi spiegare le cose e non invece continuare in qualche modo a illudersi o a farsi illudere o a evadere, a sognare? Va recuperata una parte di pubblico che è stata mal abituata negli ultimi anni, ma non dimentichiamoci che gli italiani non sono l'unico pubblico della comunicazione di Monti, ci sono alcuni pubblici, come dire, privilegiati in qualche modo, o comunque strategici, sono il mondo politico internazionale, la stampa internazionale, la stampa italiana, ovviamente i cittadini italiani, che hanno voglia di farlo sentire e hanno anche voglia di capire che cosa diavolo sta succedendo, che non è semplicissimo da capire, eh? E fra l'altro anche l'attesa di ricette e soluzioni immediate appartiene alla logica del sogno, che ormai è un po' fuori tempo, direi. Senta, tanto per rimanere sul paragone con Berlusconi, il quale era sicuramente, è sicuramente brillante dal punto di vista della comunicazione, Monti invece mi sembra che sia rassicurante, e mi viene in mente un paragone, ci pensavo proprio adesso, visto anche questo suo umorismo molto british, che però insomma, poi riesce a strappare qualche sorriso, mi viene in mente un paragone, ma del tutto campato per aria, con Raimondo Vianello, cioè quest'aria rassicurante, no, che fa sorridere, e che però poi in qualche modo appunto rassicura e calamita una sorta di consenso. Non lo so, lei come la vede questa aria di rassicurante? Sì. Monti stesso ha parlato di sé e del suo essere, per definizione e credo per scelta, grigio, nel corso della conferenza stampa, quando ha detto: i giornali tedeschi dicono che sono il uomo genero ideale, normale, mi vesto di grigio, sì. Sono una storia, un ottimo genero, e ci ha riso sopra anche, ma è giusto così. È giusto così. Senta, e invece questo... Sì. Questa caricatura che fa Crozza, che in genere coglie il nervo scoperto dei personaggi che imita, se pensiamo che a Bersani addirittura ha fatto un favore, perché ha trasformato alcuni suoi limiti linguistici in tormentoni che fanno ridere tutti. Crozza fa Monti come un robot, cioè quasi senza un'anima. Questo potrebbe essere però un difetto di Monti, che sembra molto freddo. Ma io trovo molto interessante, Pedro Crozza è fantastico, nel senso che ha una capacità di cogliere alcuni noccioli profondi dei modi di essere delle persone e di restituirli con grandissima precisione e fulgore, lo trovo straordinario. Ecco, ma... Allora, anche questa anima robotica di Monti, poi nella esagerazione del trattamento comico ovviamente, in realtà ci rimanda, e lo stesso Monti di nuovo ne ha parlato in conferenza stampa, a una capacità di autocontrollo molto forte, per esempio, ha la capacità di restare freddi, lucidi. Una cosa che viene richiesta sicuramente a un capo di governo, per esempio. Sì. Assolutamente sì, voglio dire, immaginiamo di essere su un aereo in avaria, vorremmo avere un comandante un po' robotico o uno che racconta barzellette e fa servire champagne? Dipende, se siamo destinati a schiantarci, forse uno che racconta barzellette può essere più utile, altrimenti no. Grazie Anna Maria Testa, buona siamo serata. Siamo destinati a schiantarci, auguriamoci. No, era solo una battuta. Interessante 2012. Certo, era solo una battuta. Grazie e buona serata. E prima di ripartire con gli ascoltatori, un break coi titoli di studio aperto. Tonnellate di materiale pirotecnico sequestrate in giro per l'Italia, fuochi d'artificio vietati in diverse città, un capodanno senza il botto per evitare il solito bollettino di guerra. A Napoli però va a ruba lo spread, il super petardo che può anche uccidere. Cambiate premier per salvare l'euro. In una telefonata della Merkel a Napolitano, in retroscena della caduta del governo Berlusconi. È la ricostruzione diffusa oggi dal Wall Street Journal. Il Quirinale in una nota smentisce nessuna ingerenza, ma scoppia il caso. La tragedia di Valeria, 34 anni, mamma di un bimbo di 7 mesi, era in cura per un tumore a Palermo. I medici le hanno somministrato una dose di chemio sbagliata, 10 volte superiore al dovuto, denunciano i parenti. È morta dopo 20 giorni di agonia. Hanno chiamato a casa i marinai italiani della Jevoli, da giorni in ostaggio dei pirati. Siamo in Somalia, stiamo bene, ha detto il capitano alla moglie. Lei e gli altri familiari ricevuti alla Farnesina. Abbiamo fiducia, stanno lavorando per liberarli. Protesi killer, una ventina in Francia e casi di cancro accertati. Il nostro Ministero della Salute avvia un censimento degli impianti sospetti. Potrebbero essere circa 5.000 le donne a rischio. Conto alla rovescia per l'ultimo dell'anno, venerdì di partenze per chi ha scelto di festeggiare in montagna. Siamo andati a Cortina in mezzo ai VIP, ma gettonatissimo anche domani sarà il cenone in casa scelto da 16 milioni di italiani. Oh ragazzi, ma a Napoli siete troppo avanti, ogni anno vi inventate le cose straordinarie, i nomi dei petardi, quest'anno ci avete O Spread, che mi sembra bellissimo. E allora riprendiamo con gli ascoltatori, Alessandro che ci chiama da Como, buonasera. Sì, buonasera, salve. Prego. Niente, quello che volevo capire era se qualcuno riusciva a darmi una spiegazione, in questo senso, girare questo mio quesito a chi di dovere. Nella lotta all'evasione io non capisco perché non viene mai fatta una riforma in questo senso. Cioè, si tende ad aumentare la tassazione, in questo senso si parla di portare l'IVA al 23%, che è una gran fatica poi da buttare tra virgolette sul cliente. Io sono un libero professionista, sono un ingegnere, e quando devo fare per esempio una fattura da 1000 euro ad un cliente, poi gli devo esporre il 23% di IVA e quello gli piglia un colpo, sì, del 4% di cassa. E è veramente difficile delle volte far capire che oltre ai costi c'è un 30% in più di tassazione. E lì viene sempre la voglia di fare il nero, chiaramente. Quello che non riesco a capire è, sì, perché non si dà la possibilità a tutti di poter scaricare tutto, un po' come hanno fatto con la detrazione del 55% sui serramenti, che danno la possibilità, ha fatto emergere tantissimo nero. Cioè, secondo me, invece che aumentarla l'IVA, bisognerebbe per certi versi diminuirla e poi dare a tutti la possibilità di scaricare tutto. La sua è una domanda che, per quanto mi riguarda, resta senza risposta, perché me lo domando anch'io, che non sono un esperto assolutamente, anzi neanche molto meno, di fisco, e intuisco che questo sarebbe un cambiamento radicale per il nostro sistema fiscale, cioè poter scaricare tutto. Però anch'io sono d'accordo con lei che mi sembrerebbe un modo semplice per indurre tutti a non fare più il nero, perché è chiaro che avremo tutti una nostra evidente convenienza ad avere ricevute. Ma ripeto, non ho una risposta, forse qualche ascoltatore più esperto avrà un'opinione su questo, più esperto di questioni fiscali. Gabriele da Milano, buonasera. Buonasera, io sono un esperto di comunicazione finanziaria e, riallacciandomi a quanto ha detto la dottoressa Testa, sì, volevo fare un po' un riferimento su sul fatto che secondo me è sbagliato guardare alla conferenza stampa di Mario Monti con l'occhio dell'abituale comunicazione politica, nel senso che essendo stato chiamato a gestire problematiche che la politica non era in grado di gestire per vincoli o in certi casi per incapacità, non poteva che da tecnico non inseguire il consenso, ma cercare di affermare un concetto di autorevolezza, soprattutto rivolto alla business community internazionale, perché il nostro problema di reputazione, come ha detto lui, non è collegato ai fondamentali della nostra economia, ma è collegato alla, diciamo, diversa valutazione sui toni di comunicazione da adottare da agosto in poi. So che sembra un paradosso, ma per comunicare correttamente con la business community internazionale però bisogna... poi uno deve comunicare anche con i giornalisti che poi traducono ai lettori, cioè non è che uno può parlare solo alla business community, deve parlare un po' a tutti. Però è evidente che l'aria intorno è cambiata e che uno come Monti appare adeguato ad affrontare i problemi che l'Italia ha di fronte in questo momento, appare adeguato come persona, almeno questa è la mia opinione, altrimenti non avrebbero chiamato lui, insomma, ma questa è proprio banalità terra terra. Lo so se vuole concludere l'ascoltatore, sì, esperto di comunicazione finanziaria. Sì, che quando i toni da usare con la business community, che sono d'accordo, non sono i primi nell'ordine di priorità, ma sono importanti, bisogna adottare gli stessi approcci di comunicazione che si usano con i bambini. So che sembra paradossale, ma i mercati sono diciamo sensibili a punti concreti, promesse misurabili, messaggi semplici. Che vanno a letto presto la sera, come i bambini. No, purtroppo no. Purtroppo no. Va bene, grazie anche a lei, Gabriele. Andiamo a Gianluca, che ci chiama dalla provincia di Modena. Buonasera. Buonasera. Io ho sentito all'inizio la Lega, come si è espressa, nei confronti della Repubblica Italiana. Io quello che mi domando, è un po' di tempo che me lo domando, ma questi signori, faccio una domanda a lei, questi signori da chi vengono pagati da 20 anni a questa parte? Cioè, se ce l'hanno così tanto con questa Repubblica Italiana, con questo governo, con questi Roma ladrona, dico, smettono di prendere i soldi da Roma e poi fanno quello che vogliono, però fino a prova contraria sono pagati dagli italiani che l'hanno eletti e che continuano a pagarli. Io non capisco chi può permettergli di dire certe cose, sputano nella minestra in cui mangiano. Grazie, io ho detto che mi fanno venire in mente i puffi. Chi siano non lo so, gli strani ometti blu. Cioè che mi fanno tenerezza, no? Perché mi sembra che Bossi si sia ridotto a così, proprio come i puffi, una cosa che ci ricorda la nostra infanzia, cose dette anni e anni fa, per anni e anni, non è cambiato nulla, è stato al governo fino a ieri e la secessione adesso riscopre la secessione, però insomma Bossi, sono passati 20 anni, ma se dovevate fare questa secessione dovevate averla già fatta chissà quanti anni fa. Vabbè, questa è la mia sensazione. Ci abbiamo degli altri Bossi da sentire, non so se sì, per esempio quello su Monti senatore a vita. Ce l'abbiamo? Sì. Ha preso uno, l'ha premiato, l'ha fatto diventare senatore a vita. Altro che democrazia. Vergogna! Certo. Mandiamo un saluto al Presidente della Repubblica. Insomma, altro boss lo sentiremo più avanti, quello di ieri sera a Bergamo. Adesso abbiamo ancora il tempo, forse, sì, per un altro ascoltatore, prima del giornale radio. Gianni da Roma. Gianni da Roma, buonasera. Prego. Innanzitutto, tanti auguri, una buona fine, un buon principio a tutti quanti. Niente, volevo rispondere al consigliere che ha nominato prima la Merkel, che avrebbe fatto pressioni sul nostro capo dello Stato. Sì. Per quanto riguarda le dimissioni di Berlusconi, io personalmente la ringrazio, niente, tutto qua, devo dire soltanto questo. Cioè lei dice, meno male che la Merkel, se non era per la Merkel, ci avevamo ancora Berlusconi e lei non sarebbe stato contento, questo. Pronto? Vabbè, Gianni è sparito, non importa, abbiamo il giornale radio e poi di nuovo gli ascoltatori più tardi fino alle 20.30, 800 24 0024, altri ospiti e il nostro mix di 2011, i principali fatti, le principali voci, soprattutto della, di questo anno politico che si è chiuso con una svolta. La zanzara. 19:15 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, insieme fino alle 20:30 all'800 24 0024 con i vostri interventi che risentiremo tra poco. Adesso però facciamo sentire un po' di titoli di TG Sky TG24. Il Colle smentisce Wall Street Journal, la Merkel non chiese la testa di Berlusconi. Spread ancora oltre quota 5,20, Monti accelera sui provvedimenti per la crescita. Misure contro corruzione ed evasione, riforma del mercato del lavoro, ecco le priorità. Tassa su alcol e cibo spazzatura, l'ipotesi del Ministero della Salute già fa discutere. L'anno nuovo già ci mette le mani in tasca, subito rincari per luce, gas e pedaggi. Addio all'ex ministro Tremaglia, firmò la legge per il diritto di voto agli italiani all'estero. Botti di Capodanno, cresce il fronte del no, appelli alla prudenza nella città dove si sparerà. Ancora sotto sequestro i semi marinai italiani in Oman, l'armatore dice stanno bene. Carletto diventa Monsieur Carlo e ufficiale, Ancelotti è allenatore del Paris Saint-Germain. X Factor sceglie i finalisti, trionfa anche negli ascolti, record per i voti da casa. Beh, X Factor diventa anche un titolo di Sky TG24, vabbè, perché lo fanno loro e quindi giustamente si autopromuovono, TG3. Secondo il Wall Street Journal, Angela Merkel avrebbe chiesto a Napolitano le dimissioni di Berlusconi, il Colle e Berlino smentiscono, nessuna pressione. Da gennaio confronto governo sindacati verso il contratto unico per i giovani, Monti alla prova dei partiti, paletti di PD e PDL, Lega all'attacco. Tariffe da gennaio pesanti, rincari, autostrade più 3,5%, la luce quasi il 5%, ma arriveranno anche rimborsi dal fisco. Ancora per tanti italiani l'anno nuovo si aprirà senza il lavoro, le vertenze dell'operaia dell'OMS e dei precari del settore aereo di Roma. Venerdì di violenza in Siria, il regime uccide decine di manifestanti, nonostante la presenza degli osservatori della Lega Araba. Tanti sequestri di botti da nord a sud e per la prima volta molte città li mettono al bando per Capodanno, divieti difficili da far rispettare. Tutto nel 2011, Genova e le Cinque Terre, Messina e la Lunigiana, una lunga serie di tragedie raccontate dai cellulari dei cittadini. Sì, sì, sì. C'è chi dice sì, c'è chi dice no a parole di approvazione o di disapprovazione al discorso del Presidente del Consiglio Mario Monti. Ieri abbiamo commentato lungamente anche il suo stile di comunicazione con l'esperta Anna Maria Testa, che difendeva lo stile comunicativo di Monti, che invece sui giornali viene per lo più stroncato. È stato evasivo, elusivo, dicono in molti, e anche noiosetto, abbiamo aggiunto noi, ma senza avere la presunzione di dare patenti o giudizi, insomma un po' un dato di fatto. Ma commenti al discorso, dicevamo, sentiamo Cicchitto. La mia impressione è che sono stati indicati i titoli di una fase nuova che dovrebbe essere quella della crescita, e i titoli sono liberalizzazioni, privatizzazioni, interventi sul mercato del lavoro. Quanto ai titoli ci stiamo. Poi invece bisogna vedere la materia, la sostanza di questi titoli, e su quello ci riserviamo evidentemente la valutazione, perché sul merito il Presidente non è intervenuto. E sempre, diciamo così, sul fronte dei sì o dei possibilisti c'è anche il segretario del PD Bersani. Ho ascoltato un'analisi onesta, veritiera della situazione italiana e europea. Diciamo che dopo anni di favole abbiamo avuto un bagno di realtà. Siamo stati portati fin sul precipizio greco, ci siamo fermati, adesso c'è ancora molto da fare, i titoli che Monti ha dato sono titoli giusti, magari ne manca qualcuno sul sociale. E cominciamo con le voci critiche di Pietro. Continua La politica delle televendite del Presidente del Consiglio, che magnifica i suoi decreti dandogli egli stessi il nome, da Salvi Italia a Cresci Italia, salvo aggiungere che in quest'ultimo caso neanche ci ha detto come vuol farlo crescere. E poi le dichiarazioni, che abbiamo detto quasi fotocopia sorprendentemente di Marco Rizzo, ex dei Comunisti Italiani, adesso non so esattamente quale frangia rappresenti, appunto dei Comunisti Italiani, e Matteo Salvini della Lega. Cominciamo con Rizzo. Verranno immolati sull'altare chi? I tassisti? I benzinai? Sono queste le grandi liberalizzazioni? Toccheranno i petrolieri? Lei ha informazioni di questo? Toccheranno i grandi banchieri? Qua Rizzo e sentiamo Salvini. Penso tutto il male possibile, perché se il Salva Italia ha tolto 20 miliardi di euro dalle tasche dei pensionati, degli automobilisti e dei proprietari di casa, il Cresci Italia pensa di far crescere il paese tartassando taxisti e farmacisti. Voglio fare quello che mi pare senza un limite. Benissimo, insomma, queste un po' di voci, tra poco ne sentiremo altre, c'è anche tutto il capitolo Bossi, per esempio. Allora, visto che parliamo di Lega, salutiamo Davide Boni, presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Buonasera. Buonasera a voi. Insomma, le dichiarazioni di Bossi su Napolitano qualche reazione l'hanno suscitata, però io prima voglio dire una cosa. Voi che avete detto Napolitano ha pilotato questa crisi di governo forzando con Monti, portandolo a Palazzo Chigi, si diceva sono le solite esagerazioni della Lega. Adesso invece il Wall Street Journal, niente proprio di meno, vi dà ragione, perché dice è stata la Merkel con una telefonata a Napolitano a forzare in questa direzione. Avevate ragione voi, Boni. Ma è qualche decina d'anni che abbiamo ragione, mi sembra, no? Perché avevamo già dipinto questa cosa. Mi sembra che Bossi, quando parlava di Europa così messa, il risultato si vede, l'Europa non esiste. Almeno non esiste che nel pensiero di tutti, ma soprattutto dei cittadini italiani, che in questo momento si rendono conto che se basta una telefonata della Merkel a far cambiare il capo del governo in Italia, evidentemente siamo in una situazione che le decisioni vengono prese da altre parti. Voi avevate ragione, lei dice da vent'anni che avete ragione, però qualche responsabilità ce l'avrete anche voi. La Ferilli, entrando in polemica tra l'altro con Borghezio, ha detto la Lega è stata 3 anni al governo, adesso si è appollaiata su un ramo di un albero e fa l'uccello del malaugurio dopo essere stata 3 anni al governo, e la crisi non è tutta colpa di Monti, insomma, se no si... sembra, dice la Ferilli, contraddittorio. Lei che dice? Qualcosa avete sbagliato anche voi o no? No, noi abbiamo appoggiato un governo che aveva iniziato una serie di riforme, questo è il punto. Sta di fatto che le riforme sostanziali, anche con questo governo e noi con l'8% dell'azione che abbiamo fatto, perché poi abbiamo difeso gran parte del nostro territorio, io non dimentico mai, ricordo a tutti quelli che ci ascoltano, che faccio parte di una formazione che si chiama Lega Nord, che è iniziata a portare avanti il federalismo, una riforma strutturale, perché poi se non si vanno alle riforme strutturali è inutile tartassare i cittadini, perché come Presidente del Consiglio, di un Consiglio che ha una performance altissima rispetto a tutte le altre regioni d'Italia, faccio degli esempi molto pratici, soltanto se tutti adottassero il sistema dei costi standard che abbiamo in regione Lombardia, porto l'esame della sanità, noi avremmo un risparmio di 7 miliardi all'anno sul territorio nazionale. Però Boni, l'ascoltatore si chiede come mai la Lega, che era al governo e che ha portato avanti il progetto del federalismo, adesso dice se ci fosse il federalismo, se neanche voi ci siete riusciti, non ci riuscirà mai nessuno, che succede? Deve prendere coscienza la gente, questo è il punto. Di cosa? Deve prendere coscienza che il cambio del sistema passa attraverso un sistema totalmente diverso, anche di rappresentanza politica che porta a delle responsabilità dirette sui propri territori. Non è che sto dicendo in politichese qualcosa di diverso, il fatto che non è possibile che se noi in Regione Lombardia riusciamo a costare come consiglio regionale qualcosa come meno di 7 euro a cittadino, le altre regioni non riescono a farlo lo stesso. Quando la regione Lombardia riesce a avere su 10 milioni di abitanti 3 milioni di dipendenti, mentre altre regioni d'Italia con la metà dei nostri abitanti hanno 10 volte i nostri dipendenti pubblici, questo vorrà dire qualcosa. Tra i soldi risparmiati dalla Regione Lombardia ci sono anche quelli della liquidazione sospesa a Nicoli Cristiani. So che lei tra l'altro è stato tra i promotori di questa sospensione della maxi liquidazione del politico del PDL, indagato credo per corruzione, gli hanno trovato i soldi in casa. Lei rivendica questo risultato? Ma io credo che in questo momento ci sia il momento di, scusate il gioco di parole, di chiarire le cose. Cioè che non è possibile che oggi chi è inquisito di corruzione adoperando la sua carica istituzionale venga poi mandato a casa dandogli dei soldi che magari la Regione Lombardia potrebbe rivendicare, perché c'è un danno d'immagine molto forte. Almeno questo va dato ai cittadini lombardi, ma soprattutto chi ha delle responsabilità deve pagare per le proprie responsabilità. Senta, ma nel PDL ci sono un po' troppi inquisiti? Perché capita spesso, no? Guardi, io non guardo mai in casa ad altri. Certo che io spesso e volentieri dico che, insomma, portare la croce e cantare per gli altri per noi è molto faticoso. Questo sì. Magari una regolata bisognerebbe darsela, ecco. Guardi, io ho più paura del mio segretario federale, tra virgolette, che non tanto dei magistrati, per una ragione molto semplice. Sì. Se io faccio politica, rispondo a un movimento politico che mi ha dato alcune responsabilità, per cui devo dare anche la mia totale lealtà e la mia totale onestà per il lavoro che faccio anche al mio movimento politico. Il 10 gennaio si voterà per Cosentino sulla richiesta d'arresto della magistratura. Il PDL campano, il vostro ex alleato, insomma, a livello locale ancora alleato, credo, PDL, il partito di Berlusconi, discute se togliere a Cosentino il ruolo quantomeno di coordinatore del partito in regione. Lei è un coordinatore così, cosa ci farebbe? Guardi, ieri sera l'ha ripetuto Umberto Bossi durante il comizio di Albino. Da noi i dirigenti che sbagliano vengono cacciati a calci, le lascio immaginare dove. No, sei libero di dirlo, eh? No, vabbè, ma abbiamo capito. Umberto Bossi ha detto a calci in culo, così facciamo prima. Quindi, insomma, su Cosentino, ma la Lega cosa voterà? Voterà contro? Cioè, voterà per gli arresti o no? Perché dovete anche essere coerenti poi in sede parlamentare, se no tutte queste sono solo chiacchiere, Boni. Ma guardi, Bossi ieri sera ha detto in maniera molto chiara, cioè fin quando il PDL appoggia questo tipo di governo vuol dire che l'alleanza si allontana sempre di più e ognuno gioca la partita per sé, perché ormai siamo a re della razione. Però, sì, cioè, se voi foste ancora alleati col PDL avreste salvato Cosentino, adesso che non siete più alleati no. Non è un atteggiamento molto coerente, però, ma da quello che capisco. È un atteggiamento di lealtà rispetto all'alleanza, questo è il punto. Cioè voi per l'alleanza avreste mandato giù anche questo boccone, come, allora devo immaginare, avete mandato giù altri, per esempio, guardi, non so, le leggi sulla giustizia. Abbiamo, come ho detto prima, abbiamo cantato e portato la croce per cose non nostre, perché l'obiettivo finale era molto alto, è un obiettivo che rimane molto forte da parte nostra. Per questa cosa poteva, come diceva qualcuno, Parigi val bene una messa. In questo caso qualche messa l'abbiamo cantata, forse l'abbiamo cantata qualcuna di più, ma sta di fatto che a questo punto non cantiamo più per nessuno, cantiamo per noi e basta. Ecco, però tornando un attimo ancora indietro alla ricostruzione del Wall Street Journal, che dice di questa telefonata della Merkel a Napolitano, il Quirinale ha smentito, nella quale sarebbe stato chiesto proprio di sostituire Berlusconi con Monti. Se questo è vero e conferma comunque la teoria vostra, ma non solo, di una forte regia di Napolitano in tutta questa operazione, però allora queste pressioni c'erano, cioè Berlusconi era oggettivamente davvero un ostacolo per l'euro e per l'Europa. Monti addirittura ha detto dall'Italia dipendono gli equilibri del mondo, cioè Berlusconi andava tolto di mezzo. Andava tolto di mezzo evidentemente per un disegno politico, questo è il punto. Perché? Ma qual è il disegno politico della Merkel se non un disegno economico sull'euro? Ma il disegno oggi più che mai, più che in qualche altro momento storico mondiale, chi gestisce la politica, soprattutto in Europa, è la finanza, perché poi è inutile nascondersi che sia Monti che il nuovo premier che c'è in Grecia arrivano dalla stessa famiglia. Perché guardi, io ieri quando ho sentito il nulla che ha detto l'attuale Presidente del Consiglio, perché non ha detto nulla, è riuscito a dipingerci il fatto che lo spread, che fino a qualche giorno fa soltanto la parola spaventava l'italiano, non è una questione fondamentale, però fino a ieri ci hanno raccontato che se non veniva spostato Berlusconi noi saremmo caduti come è caduta la Grecia, ma io ho qualche dubbio su tutta questa fisionomia o questa congettura. E il risultato finale è questo. Chi siano non lo so, gli strani ometti blu, sono alti su per giù, due mele poco più, le pochi siamo. Davide Boni, io ho detto, facendo ascoltare un po' di Bossi ieri sera a Bergamo, che alcuni passaggi, quando ha detto Napolitano, Terun, eccetera, che Bossi mi fa un po' l'effetto dei puffi, cioè mi fa tenerezza, con tutto rispetto, perché mi riporta un po' alla mia infanzia, cioè sono anni che sento dire queste cose da leader della Lega, però all'inizio facevano molto effetto, adesso mi sembra che piano piano queste armi si stiano un po' sgonfiando, la secessione e tutto l'armamentario. Però adesso che voi siete all'opposizione, siete di nuovo tornati alla vostra verginità, cioè siete più contenti, siete più felici o no? Guardi, io ho esordito l'altra sera, perché ho fatto il comizio l'altra sera a Albino, dicendo che mi sento molto più libero. Questo è il mio pensiero. Ma perché penso che tante volte è meglio stare soli che male accompagnati. Questo è un'altra cosa. Sì. È naturale che anche io, che sono un uomo in coalizione, perché sono in Regione Lombardia, è naturale che guardi i miei alleati in maniera diversa in questo momento. Mm. Ma secondo lei la Lega dovrà ricostruirsi anche un percorso politico nuovo, o può continuare a guardare alla secessione, al Terun e a Roma Ladrona come se niente fosse passato in questi anni? Magari. Gli anni di governo a Roma, per esempio, vostri. Ma beh, questo sì, ma è naturale che ognuno prova i tentativi per arrivare al nostro obiettivo. Non possono essere lineari, perché come ho detto prima, noi siamo una formazione politica che è fortemente territoriale e oggi la gente lo capisce sempre di più. Il risultato finale, quando tu hai un governo nazionale rispetto a riforme che non passano, dove conti l'8%, quello è il punto di mediazione. Alcune cose le porti a casa, altre fai molta più fatica, ma tante altre devi mediarle, come facciamo anche in Regione Lombardia, con i nostri alleati, perché purtroppo, per fortuna, nella democrazia la legge dei numeri c'è. Noi teniamo quella strada. Io sono secessionista, ma lo dico in maniera molto chiara. Possiamo chiamarla autodeterminazione, possiamo chiamarla federalismo spinto, possiamo chiamarla macro regioni, possiamo chiamarla padania, che a me piace di più. Però sta di fatto che questo paese o cambia con una riforma strutturale, che non vuol dire le pensioni o quelle cose lì, vuol dire evidentemente che ci deve essere un centro di potere che deve essere sempre più in periferia e soprattutto deve essere gestito in una maniera diversa. Il sistema duale in Italia non lo inventa Bossi o non lo inventa Boni o non lo dice il Wall Street Journal. La verità vera è che oggi siamo di fronte a una situazione dove un paese che non è uguale, ma non è una questione di Terun o Minga Terun, perché questa cosa qui sono quelle cose che il segretario federale dice di fronte a un colpo di mano che è successo da parte del Presidente della Repubblica. Sta di fatto che la stessa Merkel, se lo riproponiamo a livello europeo, parla di un sistema duale anche a livello europeo, con un euro più forte e un euro meno forte. Lei pensa che la Padania, che è il nord, non sia in grado di competere e entrare nel sistema più pesante, avendo un'economia ancora, tra virgolette, molto forte? Non lo so. Questo me lo deve dire lei. Comunque io ho scherzato coi puffi eccetera, però dico che la notizia della sospensione, ribadisco, della liquidazione da 340.000 euro a Nicoli Cristiani, decisione del Consiglio regionale della Lombardia, nel quale lei e la Lega vi siete impegnati, è una delle buone notizie con cui si chiude questo 2011, perché è l'ora di finirla con queste cose. Si impegna lei a evitare che poi una manina tra un po' torni e vada a faccia retromarcia su questo? Sempre che poi se dovesse essere assolto, naturalmente, questa presunzione di innocenza sempre, però per ora non è così. Guardi, io sono per questa filosofia, e come Presidente del Consiglio lo posso garantire che fin quando noi non arriviamo alla chiarezza totale, quei soldi lì non arrivano, quello glielo posso garantire. E la stessa cosa faremo sul vitalizio, Ecco, sul vitalizio che notizie abbiamo? Perché in questi mesi le regioni si stanno adeguando tutte, la Lombardia a che punto siamo? Noi abbiamo già fatto la approvato, sì. L'ha già approvato, ma dicevo sul vitalizio, sì. Coloro che sono in questa situazione, sì. Se ci fosse la domanda del vitalizio da parte del mio ex collega, che guardi che personalmente, cioè, siccome abbiamo lavorato, era uno dei miei vicepresidenti, per cui alla fine abbiamo lavorato insieme, se però ci fosse la richiesta di vitalizio in questo momento, credo che spingerò la giunta a prendere una posizione anche lei in questa direzione. Devo dire che la collaborazione in questo momento con Formigoni è stata molto forte, anche sul vitalizio si blocca fin quando non abbiamo la chiarezza della situazione. Grazie Davide Boni, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Riprendiamo con voi ascoltatori all'800 24 00 24 e andiamo ad Alessandro che ci chiama da Forlì. Buonasera. Alessandro, buonasera in diretta, ci sente? Pronto? Sì, prego. Buonasera. Io volevo intervenire dicendo che ho una visione diversa dalla sua, in quanto la figura di Monti a me non rassicura affatto. Un po' per le dinamiche con le quali è arrivato a ricoprire il ruolo che ricopre, capisco il ruolo. Ma anche io parlavo di lui, cioè parlavo del suo stile di comunicazione, del suo modo di essere. È proprio la comunicazione. E quindi non c'entra nulla il modo in cui lui è arrivato, questo non c'entra nulla, è proprio lui. Sì. Essendo complesso, richieda una comunicazione più semplice. Che gli argomenti vengano spiegati meglio. Cioè, siccome il momento è complesso, ci vuole una comunicazione semplice. Perché? Pronto? Sì, no, lei dice che siccome il momento è complesso, occorre una comunicazione semplice. Dovrebbe essere più chiara, arrivare più a tutti. E queste cose dette e non dette. Beh, ma su questo però mi permetto di eccepire, perché il fatto che Monti sia noioso sicuramente sì, il fatto che possa non essere rassicurante, questo è il suo punto di vista, ma che non si metta a spiegare le cose. Addirittura ha tirato fuori il grafico, è stato lì 2 ore e mezza a spiegare, a fare una lezione di economia praticamente, quindi questo, su questo non la seguo. Non riusciamo a capire queste ricette quanto siano frutto italiano, quanto venga da fuori, ed è questo che è inquietante. Non so se mi l'ho spiegato. Non so se si è spiegato, penso di sì. Sentiamo anche gli altri ascoltatori che ne pensano. Ettore da Cremona, buonasera. Buonasera, ma guardi, io sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore di prima, secondo me Monti non ha fatto una lezione di economia, ad alcune questioni nodali non ha risposto, comunque volevo fare qualche festa di questo tipo, anche in considerazione delle cose che ha detto Monti ieri, guardi, sì. Questo è un paese da rifare, questo è un paese che ha bisogno di essere messo in mano a delle persone giuste, non solo oneste, giuste. Perché i flash che voglio fare, guardi, un minuto, flash dei flash. Durante il governo Berlusconi 81 avvocati hanno messo a repentaglio la sicurezza dell'Italia minacciando di votare contro la manovra se avessero fatto le liberalizzazioni che comprendevano l'abolizione degli ordini professionali. Sulle pensioni hanno tagliato del 15% a titolo contributivo solo la parte eccedente 200.000 euro. Quando alcuni stati mettono un tetto sulle pensioni. Ma chi questo? Chi è il responsabile di questo? Non ho capito. Beh, in questo senso voglio dire, Monti poteva fare di più. No, ma non ho capito, scusi, mi riepiloghi anche agli ascoltatori. Cioè, questa questione degli avvocati e la questione delle pensioni, lei a chi la imputa? A Monti? C'è stata una minaccia da parte degli avvocati. Non ascolta, mi scusi. Mi scusi, ascoltatore, deve rispondere alla mia domanda, se no non andiamo avanti perché non si capisce. La questione degli avvocati che si oppongono alla liberalizzazione e il taglio delle pensioni, come dice lei, lei a chi lo imputa? E non ho capito questo. Allora, le sto dicendo che questo è un paese sista, è un paese che difende le caste. Anche Monti difende le caste e di esempio, ho parlato di flash, ne abbiamo avuto nel corso di questi mesi, a partire dalla minaccia dei deputati avvocati del PDL. Sì, ma che c'entra Monti con quella cosa lì? Arrivo. Voglio dire, tutti speravano che Monti fosse una persona più giusta, non lo è stato. E ho fatto l'esempio del taglio. Ma scusi, appena iniziato, è un mese che ha già finito, cioè già in un mese ha già chiuso il suo credito. È chiaro che un governo, io non è che voglio difendere Monti per forza, però dico, in un mese cosa ci aspettavamo che potesse fare quello che non ha fatto il governo precedente in 3 anni? Perché la manovra Monti poteva quando fare mai? Qualsiasi cassiere di banca. Va bene, grazie, basta. Cioè, mi pare a volte con gli ascoltatori non sempre. Sì, poi il suo pensiero l'ha espresso, è chiaro. Però fare un passo in più non sempre è possibile. Giusi da Brescia, buonasera. Giusi? Sì, buonasera. Sarò breve perché sto entrando in un ambulatorio medico. Chiamo da Brescia. Sì. Io mi sono indignata e speravo che anche lei come conduttore si indignasse per quello che ho visto in televisione da parte del signor Bossi, cioè riferirsi al nostro Presidente della Repubblica inviandogli le corna, cioè dandogli le cornute del terrone. Io non entro in polemica per tutto il resto, però dico solo che siamo già arrivati ad un degrado che fa paura, e queste cose per mantenersi le seggioline, per recuperare quello che stavano perdendo ormai, perché la gente che li seguiva aveva aperto un po' gli occhi, è veramente vergognoso, inqualificabile. Che poi io chiamo da Brescia e il figlio, il signor Trotta, sappiamo come è arrivato i voti, si sa cosa c'è in questo momento, che stanno cercando di capire che cosa ha fatto la signorina che gli ha fatto vincere le elezioni, e proprio loro parlano, no, di uno che si prende 12.000 euro in regione e altri 2 incarichi, arriverà a 30.000 euro al mese, un perfetto ignorante. Quindi voglio dire, in casa Bossi potrebbero anche forse essere un pochino più educati, ma non possono. Grazie, già mi sono dimenticato di chiedere a Boni della questione del Trota e delle voci di questi festini a quale avrebbe partecipato, mi ero dimenticato. Non c'era il traffico naturalmente, c'era solo la pausa. Marco da Napoli, buonasera. Buonasera, salve. Due cose molto brevemente. La prima, volevo far presente all'ascoltatore che ha chiamato prima che gli avvocati non sono una casta. La liberalizzazione degli avvocati non ha un senso dal punto di vista puramente economico. Gli avvocati sono dei liberi professionisti, per cui non come farmacie o tassisti a cui viene concessa una licenza. La liberalizzazione però c'è la questione delle tariffe, per esempio. No, quella è la parte minore. Consideri che la maggior parte degli avvocati possono derogare i minimi tariffari. Quindi, adesso sì, prima non era così. Quindi questa è stata una conquista. Qui la liberalizzazione ovviamente non è finalizzata a una cosa che già esiste. La liberalizzazione della cassa degli avvocati è finalizzata a far sì che la cassa di previdenza degli avvocati, la CPA cosiddetta, che è una cassa molto ricca, finisca nel calderone dell'INPS, in maniera tale che loro possono prendere i soldi della cassa degli avvocati, che è una cassa ricca, e andare a ridistribuire sulle pensioni ordinarie. E è un modo per finanziarsi, insomma, le altre pensioni, perché la gente non riesce a capire che l'avvocato, essendo un libero professionista ed essendoci 300.000 in Italia di avvocati, non 300.000 per dire un numero esagerato, 300.000 effettivi, non c'è un problema di liberalizzazione o di concorrenza. Sono gli avvocati, come media, sono delle persone che guadagnano la stregua dei commessi oppure dei parrucchieri, non è che siano persone così benestanti. Questo è giusto per chiarire. Sai qual è il problema degli avvocati in Italia? Che ce ne sono troppi, grazie, ma non lo dico io, lo dicono le statistiche. Solo in provincia di Roma ci sono altrettanti avvocati che in tutta la Francia o qualcosa del genere. Salutiamo Francesco Scalia, consigliere regionale del Lazio, del Partito Democratico. È così? Buonasera. Ecco, Scalia, per parlare di cosa? Per parlare dell'aeroporto di Frosinone, perché oggi in un articolo di Sergio Rizzo su Corriere della Sera si rende conto del fatto che in queste ore la giunta Polverini del Lazio ha portato a termine questa operazione di finanziamento e di ingresso quindi nella società dell'aeroporto di Frosinone con un investimento di 1.300.000 euro. A parere mio una follia, se si considera che l'ENAV ha già detto che a Frosinone c'è la nebbia e l'aeroporto su cui investire è Viterbo, oltre a quelli romani. Però giustamente Rizzo dice: quando si parla di aeroporti, destra e sinistra marciano unite. Lei sostiene questo progetto come lo altri? Lo sostengo, sono un grande fautore di questo progetto. Ci spieghi però perché? A che serve l'aeroporto di Frosinone oltre che a prendere voti a Frosinone? No, assolutamente, perché l'ENAC stima in 56 milioni i passeggeri nel Lazio nel 2020. Attualmente Fiumicino e Ciampino insieme ne fanno 36 milioni circa. Ciampino è già stata decisa la chiusura, perché Ciampino è un aeroporto, insomma, un vecchio aeroporto militare autorizzato al traffico civile, ma insomma con condizioni ambientali, è una pista all'interno della città, insomma, già da tempo sia il Ministero che la Regione hanno deciso di spostare il traffico su Ciampino su un altro aeroporto. È stato localizzato dal Ministero Viterbo con una decisione io credo discutibile. Viterbo è collegata a Roma con una ferrovia monorotaia che passa per i centri, per i comuni del Viterbese e dalla Cassia Bis. Immaginate, questo dovrebbe essere rapporto al servizio di Roma, non al servizio né della provincia di Frosinone né della provincia di Viterbo. La Regione ha localizzato a Frosinone un aeroporto di interesse regionale, quindi un piccolo aeroporto attestato sui 3 milioni di passeggeri a servizio del sistema aeroportuale laziale. Frosinone è collegata a Roma con l'autostrada a tre corsie, due caselli, ferrovia sia tradizionale che alta velocità già interconnessa. C'è una valutazione fatta dalla Pricewaterhouse che stima realizzabile questo aeroporto esclusivamente con un'operazione di finanza di progetto, quindi non un euro a carico del pubblico. Però questo 1.300.000 euro già sono a carico del pubblico. Questo è uno stanziamento del 2006. Vabbè, di quando è non importa, sono soldi pubblici. Nel 2006, nel 2009 si decise di non utilizzare queste risorse già stanziate per la progettazione che è già stata fatta, ma per partecipare al capitale sociale della società che sta promuovendo la realizzazione. Ma scusi, di questa... va bene. Allora, per cui la Regione deve soltanto mettere in gara il progetto preliminare e poi se ci saranno privati parteciperanno alla gara per l'affidamento della concessione, costruzione e gestione, l'aeroporto si farà, altrimenti non si farà. Altrimenti questo 1.300.000 euro. La Regione ha deciso di farlo ad esclusivo, sì. Esclusivamente con ricorso alla finanza di progetto, quindi senza ad esclusivo carico ad eccezione di questi soldi, almeno questi che sono già stati stanziati. Perché questi... Questa è per la partecipazione alla società, sì. Nel senso che rimangono di proprietà della Regione, possono anche non essere utilizzati, partecipano al capitale sociale della società. La questione della nebbia, che l'ENAV dice che c'è la nebbia a Frosinone, quindi non è un'area adeguata ad un aeroporto. La nebbia non c'è a Frosinone, ma la nebbia c'è a Torino, a Milano, mi sembra che Malpensa, Linate, lo riporto di Torino ci siano. Son tutte. C'era una conferenza di servizi avviata nel 2008 che poi è stata dal cambio della giunta regionale e dall'amministrazione provinciale si è fermato un po' tutto. Adesso si sta riprendendo una conferenza di servizi nella quale le amministrazioni coinvolte diranno il loro parere. Lo studio di prefattibilità ambientale dell'aeroporto è stato sottoscritto da Franco Carrer, che è l'attuale presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed è ordinario alla Sapienza. La valutazione è stata fatta da Allegrini del CNR, la progettazione è stata fatta ai massimi livelli, insomma, che hanno attestato la compatibilità aeronautica, la fattibilità sia sotto il profilo tecnico che economico e finanziario. Poi confronteranno le amministrazioni che dovranno dare loro nulla ossa alla realizzazione. Per cui, però... Ma il fatto che leggiamo che i politici che più spingono per questo sono tutti i politici della zona e che vengono eletti, lei in quale collegio elettorale è Frosinone? Io ho spinto questa opera da presidente della provincia. Era già presidente della provincia, sì. Presidente della provincia di Frosinone, poi lo continuo a sostenere da consigliere regionale. È necessario fare un altro aeroporto a servizio del sistema aeroportuale romano, su questo non ci piove. Viterbo costa 1 miliardo di euro, tutto a carico del pubblico, perché bisogna realizzare le infrastrutture di collegamento e bisogna realizzare l'aeroporto. Frosinone, le infrastrutture di collegamento ci sono, la pista, cioè bisogna fare la pista, l'aerostazione costa circa complessivamente 100 milioni che si carica esclusivamente il privato. Questa è la valutazione da fare. Immaginate, l'alternativa sarebbe concentrare tutto su Fiumicino, 60 milioni di passeggeri su Fiumicino. Immaginate quanto. No, ma io capisco allora quello che dicevi, però non capisco allora perché appunto c'è una valutazione negativa da parte dell'ENAV. Ma non c'è nessuna valutazione negativa, le sto dicendo. L'ENAV ha fatto delle valutazioni che sono state, peraltro ci sono state controdeduzioni, ma non in termini negativi, in termini di problematicità. Vabbè, problematicità negativa, che fa? Giochiamo sulle parole. Fare un aeroporto è problematico ovunque, sì. Le sto dicendo. All'aeroporto ci sono in Val d'Aosta, dove ci sono le montagne, ci sono, le ripetevo, in Lombardia dove c'è la nebbia. Fare l'aeroporto è problematico ovunque. Ma io vivo in una regione, la Lombardia, dove comunque nel nord Italia, dove di aeroporti ce ne sono molti e secondo alcuni, ormai anzi secondo la maggior parte, si è capito che ce ne sono troppi, e è anche uno dei motivi per cui Malpensa sta andando, è andata a finire come è andata, perché ci sono troppi aeroporti. Questa lezione non serve a nulla. Non perché ci sono aeroporti. Malpensa è fallito perché non è collegato con Milano, è la sua città di destinazione. Malpensa è fallito per questo, perché si è fatto una cattedrale nel deserto. E perché c'erano delle alternative, Scalia? Perché basta andare a Verona, basta andare altrove, e ci sono aeroporti funzionalissimi a Torino. Ecco perché, se Bergamo, non ci fosse alternativa, è chiaro che uno andrebbe anche col collegamento il trenino. Orio al serio, sì. Che è un'ipotesi molto vicina a quella che abbiamo fatto noi, che è un aeroporto collegato bene con Milano, ad una distanza ragionevole, che è cresciuto in maniera straordinaria in pochissimi anni. Un'altra cosa, perché io capisco le ragioni di Frosinone e mi sembra che lei abbia espresse correttamente, cioè il collegamento, tutto quello che vuole, però dobbiamo partire anche dai dati di realtà. In Italia ci sono c'è un rapporto tra aeroporti e abitanti che è molto più alto della media europea. Aggiungere aeroporti su questo non le pare sbagliato? Sbagliato. No, non stiamo discutendo di un aeroporto in Italia, stiamo discutendo di un aeroporto a servizio di Roma, del sistema aeroportuale laziale. Ma Roma si trova in Italia, mi pare. Sì, ma con un traffico. Cioè, che sarebbe, ripeto, andrebbe ad aumentare il numero di aeroporti in Italia, che è già molto alto. Ma no, perché andrebbe a sostituire Ciampino. Di Ciampino è già stata decisa la chiusura qualche anno fa e Ciampino non regge più. Il traffico nel Lazio, come ripetevo, ENAC lo dice, che insomma non è una che dà i numeri al vento a caso e che è molto propensa ad autorizzare ulteriori aeroporti. ENAC dice, ha stimato, proprio quando si è partiti da questa valutazione la necessità di delocalizzare il traffico di Ciampino, ha stimato in 56 milioni i passeggeri al Lazio nel 2020, cioè dopo domani, siamo nel 2012, 56, il doppio di quelli attuali. Dove li mettiamo? Lei conosce una capitale europea servita da un unico aeroporto? Non lo so, capitale mondiale? Cioè, mi sembra, Londra ne ha 7 di aeroporti a servizio, Roma ne ha 1,5 e quel mezzo va chiuso. Dopodiché si deve decidere se concentrare tutto su Fiumicino, e potrebbe essere interesse dell'aeroporto di Roma, non so se è interesse della collettività del Lazio. Fiumicino, il raddoppio costa 4 miliardi e 9. Non 100 milioni, 4 miliardi e 9, e si concentra in un unico punto della regione, con un unico ferrovia, con un'unica emissione sull'autostrada, 60 milioni di passeggeri. E se questo nell'interesse della collettività è preferibile, lo valuti lei. Io ritengo invece che possa, come viene in tutte le capitali del mondo, ci possa essere il grande aeroporto internazionale e un sistema di piccoli aeroporti, uno, due piccolo aeroporto a servizio di quella della città di destinazione, a servizio di quel sistema. Tanto più se in realtà, come Frosinone, in cui non bisogna realizzare le infrastrutture di collegamento, non bisogna fare un'autostrada, non bisogna fare una nuova ferrovia, come dovrebbe farsi a Viterbo. Questo l'ha detto. Va bene, bisogna soltanto fare una pista. Vedremo, Scalia. Io la ringrazio. Non so se è riuscito a convincere gli ascoltatori di non laziali o di Roma, perché quelli magari hanno già un'idea precisa e magari tifano già per l'aeroporto di Frosinone, tutti quegli altri, perché il discorso riguarda tutti. Grazie, buona serata, una pausa, ritroviamo tra poco. Vorrei prima però far ascoltare a tutti, se lo troviamo, il meglio di questo 2011, almeno dal nostro punto di vista, fatti, personaggi, soprattutto audio, passaggi vocali, visto che siamo una radio, su questo anno che si è appena chiuso, soprattutto i fatti politici. Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi sull'infedele. Grazie. Sto vedendo una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Allora lei ha già insultato abbastanza. Ho sentito tesi false. Perché non va dai giudici invece di insultare? Lontano dal vero, distorte. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Se si rompe quel patto, io sono pronto a dimettermi da Presidente della Camera nello stesso momento in cui Berlusconi si dimette da Presidente del Consiglio. È arrivata la fine dell'Italia, questa verità. Abbiamo i debiti enormi fatti dai socialisti, dai comunisti, dai democristiani. Ho scovato una casa bellissima di fronte a Cala Francese, si chiama Due Palme e l'ho comperata. E io ho dato l'incarico di darle questi soldi per sottrarla a qualunque necessità, e quindi esattamente per la direzione contraria e il fine contrario, non costringerla alla prostituzione. C'è una vecchia pratica da sbrigare. Berlusconi deve andare a casa. O ci va da solo o ce lo manderemo noi. Consentire il varo urgente di queste misure di stabilità e poi dopo dare le dimissioni. Mai usato né il termine lacrime né il termine sangue, termine sacrifici forse sì. Mandiamo un saluto al Presidente della Repubblica. D'altra parte nome nomine. Lui si chiama Napolitano. Ah no, non sapevo che era Terù. Riparata dalla selva, dal deserto, dai monti, dal mare. Una signora ci aveva chiesto, mi aveva chiesto se io mi ero indignato per le parole di Bossi su Napolitano, definito un Terun. E io però ho detto che a me queste parole mi fanno questa sensazione qua, cioè mi fanno tenerezza, un po' come i puffi, appunto, che mi ricordano la mia infanzia, perché queste cose qua, il Terun, Roma ladrona, la secessione, li sentiamo dire da 20 anni, come sentirle ripetere adesso, come se niente fosse passato, tutti questi anni, compresi anni di governo della Lega, mi fa questa sensazione qua, ecco. Sentiamo un altro Bossi, per esempio, che ne so, Filippo, quale sentiamo? Bossi su Monti, ce l'abbiamo, sì. E magari gli piace così. E va bene, 24 minuti, abbiamo gli ascoltatori in linea, tra poco anche i titoli dei TG. Se ce l'abbiamo già, no, non ce l'abbiamo ancora. E allora Salvatore dalla provincia di Alessandria. Salvatore, si abbassa la radio e ci parla al telefono, così non sentiamo il ritorno. Sì. Ecco. Okay, pronto? Prego. Pronto? Sì, la sentiamo forte e chiaro. Ok, sì. Senta, io ho sentito prima quell'esponente della Lega, che secondo me, non so, questo signore deve essere vissuto fino adesso su Marte, un altro pianeta, perché sono stati al governo i signori della Lega, si vantava che poteva staccare la spina in qualsiasi momento al governo Berlusconi, non l'ha fatto. Poi prima di andare via ci ha servito la ciliegina sulla torta dicendo che Berlusconi ci ha fatto spendere 10 miliardi, premesso che Bossi era nel governo, Allora, il dubbio che mi viene è, visto che adesso riparlano un'altra volta come parlavano prima di andare al governo, ci vogliono vendere la stessa aria fritta che ci hanno venduto prima, il dubbio è, non è che hanno per caso intenzione di tornare al governo e metterci un'altra volta nelle stesse condizioni? Va bene, grazie. Ma scusi un'altra cosa. Sì, un'altra cosa, sì. Il dottor Monti ha fatto la legge sulle pensioni perché ci dovevamo uniformare all'Europa, giusto? Sì. Ok, allora, per uniformarci all'Europa il dottor Monti dovrebbe pensare alla giustizia, il dottor Monti dovrebbe pensare a uniformare i compensi dei politici, il dottor Monti dovrebbe pensare anche a mettere gli italiani in condizioni di poter vivere come qualsiasi europeo. Magari con lo stesso stipendio europeo. Grazie e auguri. Titoli del TG della 7. Angela Merkel chiese la sostituzione di Berlusconi in una telefonata a Napolitano. Avrebbe detto non ha la forza per rilanciare la crescita, secondo le indiscrezioni sparate in prima pagina dal Wall Street Journal, che spiega il 20 ottobre la telefonata tra la Merkel e il Quirinale, da cui partì l'operazione che portò al governo Monti. Ma da Berlino e soprattutto dal Quirinale arrivano le smentite. In quella telefonata la Merkel non chiese nulla, precisa il capo dello Stato. E mentre crescono le polemiche attorno alla vicenda, dalla Lega scomposto attacco a Napolitano. Leon Terun, dice Umberto Bossi, che lo saluta anche con il gesto delle corna. L'anno orribile della borsa italiana. Piazza Affari in 12 mesi perde il 25%, bruciando 100 miliardi di euro. E lo spread di questa fine d'anno è pesantissimo. Chiude la giornata a quota 520, oltre il doppio rispetto a quello spagnolo, dove la situazione è tutt'altro che facile. Scatta l'operazione rimborsi, quasi una ventata di aria fresca, 900 milioni di euro per alcuni lavoratori dipendenti e autonomi, compresa la restituzione del canone RAI agli over 75. Ma nello stesso giorno arrivano pesanti aumenti. Gas più 2,7%, luce più 4,9%, pedaggi autostradali più 3,1% a partire dall'inizio di gennaio. È morto Mirko Tremaglia, l'ex ragazzo della Repubblica di Salò, che era poi diventato tanti anni dopo ministro per gli italiani all'estero, dando a loro il diritto di voto. Fino alla fine, accanto a Fini, anche nell'esperienza di Future Libertà. Come si dice, si allarga l'inchiesta sul nuovo scandalo delle scommesse nel calcio. Piovono nomi nuovi, mentre per il calcio vero, quello giocato, arriva infine la conferma che Carlo Ancelotti allenerà il Paris Saint-Germain di Leonardo. Un ascoltatore al 349-238-6666 ci fa ragionare, ha fatto 2 più 2, io non ci avevo pensato. A cosa serve l'aeroporto di Frosinone? Pensateci bene, cari ascoltatori che avete ascoltato La Zanzara in questi giorni o anche letto i giornali attentamente, serve a servire il Principato di Filettino, che nascerà proprio in provincia di Frosinone. Quindi due progetti quantomeno ambiziosi per fare un'unica, come vogliamo definirla, puttanata galattica? Vabbè, mi sono lasciato andare. Però è vero, perché il progetto del Principato di Filettino portato avanti da Carlo Taormina, ma sono cose vere, ci sono sui giornali, chi vive nella zona lo saprà, è proprio in provincia di Frosinone. Quindi forse era questa la domanda che dovevamo fare al consigliere regionale Scalia. Intanto titoli del TG1. Monti, conti al sicuro, non ci sarà un'altra manovra. Entro gennaio misure su liberalizzazioni, lavoro e infrastrutture. Eviteremo tensioni sociali. Berlusconi, italiani preoccupati per sacrifici. Europa punti su crescita, non solo su rigore. Bersani da premier, bagno di realtà. Critici, Lega e DDV. All'asta dei titoli pubblici, il Tesoro colloca 7 miliardi di BTP sui decennali, rendimenti in calo di mezzo punto, spread a 518 punti. Jesolo, grave, il figlio del tenore del Monaco accoltellato dalla moglie. A Viareggio, 3 indagati per la morte del fratello di Panariello. A 19 anni fa la modella e viene dalla Repubblica Ceca. Vi presentiamo la ragazza che con Tamara Eccleston affiancherà Gianni Morandi e Rocco Papaleo sul palco di Sanremo. Non c'è pace per i giovani democratici, almeno questo è quello che si capisce leggendo alcuni retroscena sulla elezione nomina. Adesso cercheremo di capire cosa del prossimo responsabile segretario dei giovani del Partito Democratico. Salutiamo Brando Benifei. Sì, ciao. Ciao, ciao Brando, responsabile europeo dei giovani, sono responsabile delle politiche europee e internazionali dei giovani democratici. Ecco, già ci stiamo un po' perdendo, però spieghiamo che succede. Sì, posso spiegare molto semplicemente. Noi stiamo per iniziare il nostro congresso nazionale. Sì. C'è una scelta da fare, farà fare un congresso per tesi, e cioè con una sorta di conferenza programmatica dei circoli che eleggono poi i loro rappresentanti a livello provinciale, regionale, nazionale. Cioè, io ho capito una cosa per semplificare, perché sennò diventa... Sì. Ci dovevano essere le primarie per scegliere, perché insomma sappiamo noi abbiamo fatto una scelta netta e che io condivido. Ecco. Pensiamo che per l'organizzazione giovanile del Partito Democratico sia importante valorizzare invece i militanti e gli attivisti, è una cosa diversa rispetto a una cosa di partito. Secondo me è stato giusto non fare le primarie. Sto però facendo una battaglia per avere accettata, anche se con qualche giorno di ritardo, ho motivato il ritardo per via di alcune incongruenze e problematiche che avevamo all'interno delle nostre regole congressuali, sto chiedendo di accettare la mia candidatura con una mozione. Ma con la candidatura? Io credo di sì, che sia ragionevole, credo di avere ragione nel mio ricordo, Brando. Quindi credo che sarà accettata. Con la mozione Brando. Saranno gli iscritti a votare il segretario nazionale e non una platea ristretta di delegati. Questa è la cosa interessante forse da capire. Ecco, saranno gli iscritti quindi, cioè la questione... Se verrà accettata la mozione la parola sarà data agli iscritti, così come è stato nel congresso del PD, che prima di fare le primarie ha fatto votare gli iscritti. Ho capito. Avevamo pensato che ci fosse stata una retromarcia sulla questione delle primarie, che sappiamo è una delle poche novità della politica degli ultimi anni portata dal Partito Democratico, e quindi mi sembrava un tema sensibile parlo, per questo. Io ovviamente parlo per me, anche se credo il sentimento generale dei giovani del Partito Democratico. Noi siamo a favore delle primarie e pensiamo che siano state anche utili e importanti in quest'ultima fase, che ci ha visto vincere come PD anche alcune importanti vittorie amministrative che ci sono state. È chiaro che non pensiamo che le primarie vadano sempre bene dappertutto, in ogni caso io credo che abbiamo fatto bene a proprio non prevedere le primarie nel congresso per eleggere il segretario nazionale. Vabbè, insomma, credo che sia invece un bene far esprimere gli iscritti e non una platea ristretta di delegati. Questo abbiamo capito. Uscendo da questi temi un po' tecnici che io pensavo si potessero affrontare in maniera più ampia, cioè appunto il dibattito sulle primarie sì, primarie no, ma ci sono questioni procedurali vostre su cui non entriamo perché non interessano gli ascoltatori, le faccio la domanda, facciamo il traffico, mi risponde subito dopo. Cosa faresti, ti do del tu, se diventassi segretario, per cosa ti batteresti di segretario dei giovani democratici? Cioè qual è la prima cosa che vorresti fare? Qual è l'identità del giovane democratico di oggi? Siamo di nuovo in diretta con Brando Benifei, candidato a diventare responsabile dei giovani democratici. Ma i giovani democratici sono riformisti in quanto democratici o anche un po' rivoluzionari in quanto da giovani si dice sempre che c'è un po' più di slancio? Brando. Beh, io credo che cercando di cambiare anche nel piccolo, nel lavoro che fa ogni singolo iscritto della nostra organizzazione, che è la più grande organizzazione politica giovanile d'Italia, con più di 50.000 iscritti, crediamo di fare una rivoluzione cambiando nei nostri quartieri, nelle nostre città, nelle nostre università, nei luoghi di lavoro, cercare di cambiare l'Italia per renderla più giusta, più più equa, più aperta, più libera, per noi è già una rivoluzione, per il nostro paese è una rivoluzione. Io credo, se sarò candidato con la mia mozione Democrazia al futuro, che se qualcuno la vuole leggere è www.democraziaalfuturo.wordpress.com, se la mia candidatura sarà accettata dalla Commissione e magari vincessi il congresso, sì, quello, se devo dire che cosa farei per prima, come prima cosa, mi metterei a diciamo, noi sono 3 anni che esistiamo come con la vita, che siamo nati poco dopo il Partito Democratico, un anno dopo, mi metterei a lavorare perché tutto il lavoro di questi anni, noi abbiamo lavorato tanto sui temi del lavoro, dell'università, del saperi, dei temi relativi alla disoccupazione giovanile, che è la grande piaga per i giovani del nostro paese. Lavorerò perché tutto il nostro lavoro diventi più chiaro, più comprensibile ai giovani italiani. Ecco, noi siamo una grazie comunità... Brando, io ti do un consiglio, ho dato un'occhiata al sito, hai fatto anche la promozione, c'era una tesi, credo, congressuale chilometrica, lunghissima, ti consiglio di da minimamente esperto di comunicazione, insomma, voglio dire, adesso non voglio buttarmi troppo giù, però ecco, un po' di sintesi, perché sembrava una roba da partito comunista degli anni, non lo so, 50, cioè una paginata lunghissima, illeggibile, quindi un po' di sintesi, così magari lavorate su questa chiarezza. Va bene, allora riprendiamo con gli ascoltatori. Mario da Verona, buonasera. Ma un po' stroncato Brando, perché pensavo che fosse un ragazzo con qualche energia positiva da trasmetterci, ma invece sono rimasto un po' così. Prego Mario. Sì, buonasera. Sì. Beh, intanto complimenti al ragazzo, perché insomma è bello vedere che le primarie si fanno a intermittenza, alla faccia della coerenza, vorrei da dire. Poi io nella puntata di oggi ho avuto la conferma che la stupidità è bipartisan, perché prima quel politico, mi sembra di centrosinistra, di Frosinone, diceva che i dati forniti dall'ENAC o dell'ENAV, non mi ricordo, che a Frosinone c'è nebbia, sì, non sono attendibili, mentre da quasi... No, lui parlava di controdeduzioni, diceva che... Sì, diceva che c'erano delle controdeduzioni rispetto a questa posizione dell'ENAV, che dice che Frosinone è una zona affossata e anche un po' nebbiosa, nella quale quindi non è positivo e produttivo pensare di fare l'aeroporto. E lui diceva ci sono delle controdeduzioni invece che spingono a farlo questo aeroporto. Prego. Sì, però poi dava per certo che ci saranno 50-60 milioni di passeggeri. Io consiglierei sempre a questo politico di andare a vedere cosa è successo al Catulo di Verona piuttosto che a Montichiari di Brescia, che sono praticamente delle cattedrali. Sì, questo è quello che gli ho detto anch'io. Infine, sì, mi permetta una considerazione sull'esponente della Lega che ha parlato. Ecco, noi a Verona abbiamo avuto un presidente dell'azienda pubblica dei trasporti, leghista, che è stato denunciato e condannato perché evidentemente, insomma, la sua conduzione, diciamo, che è stata discutibile. A me non risulta che sia stato cacciato a calci in culo questo signore, ecco. Quindi io non so se veramente ci considerano degli imbecilli i nostri politici. Le parole che esprimono mi sembra proprio di sì. Va bene, Boni esprimeva una posizione della Lega, ma anche una posizione sua e del caso Lombardo, quindi non è che è una cosa che può essere trasposta da tutte le parti, insomma, ogni caso è una storia a sé. Comunque grazie, andiamo a Remo che ci chiama dalla provincia di Como. Buonasera. Sì, pronto? Eccoci qua, la sentiamo forte e chiaro. Sì, come no. Benissimo, benissimo. Innanzitutto auguri di buon anno a lei e a tutti quelli che ha vicino. Secondo, secondo, desidero un attimo, ho avuto una buona sensazione sentire lei, diciamo, in questa trasmissione, perché l'ho trovata più pacata e meno cabaretista, diciamo, rispetto a quella dell'ufficiale ufficiale Crociani, no? Ecco, quello che però a me risulta poco, vorrei anche dare due risposte a dei signori che hanno telefonato prima di me. Innanzitutto al consigliere Scalia gli dica di interessarsi, perché Malpensa è collegata con un treno diretto quasi al centro di Milano. Milano e in 30 minuti si arriva al centro Milano. Non capisco come persona competente come sembrato di essere non sapesse questa cosa, così almeno l'avessi aggiornato. La cosa che però più mi dispiace, data la pacatezza e diciamo così il piacere di sentire una trasmissione alla Zanzara fatta di opinioni e non tanto di chiacchiere, diciamo di tanto chiasso, è stata la sua affermazione riguardo alla Lega. Io sono un imprenditore leghista, sì. E in un certo modo di paragonare un po' il pensiero quasi da puffi. E questo io mi ritrovo nel momento che lei mi dice, parla del segretario, sì. Che con tutti i suoi pregi e difetti, diciamo, però. Vabbè, era uno scherzo, dai, era uno scherzo. No, sì, era uno scherzo, però io stavo venendo a casa dal lavoro, sono stato, abbiamo lavorato anche in questo. Abbiamo tanti problemi e dobbiamo pensare al lavoro, dobbiamo pensare di poter continuare. Ma questo però, infatti sentire, vale anche per Bossi. Ridicolizzato, sì. Da lei, mi dispiace, se lei mi dice, vabbè, è uno scherzo, prendiamolo anche come scherzo. Però prendiamo anche i valori che. Ma io non, Remo, io non volevo ridicolizzare lei o gli elettori della Lega o la base della Lega. Io non intendevo ridicolizzare nessuno, ma dire che, lo ripeto, che le parole di Bossi mi facevano non indignazione, come diceva una signora, perché ha pur sempre dato del terrone a Napolitano, ma mi facevano tenerezza perché mi ricordano emozioni che ho provato non nell'infanzia come i puffi, ma insomma quasi, cioè sono anni che le sento dire e adesso non mi fanno più nessuna sensazione forte, che sia indignazione o che sia e invece essere d'accordo con queste, mi fanno quella sensazione lì, non è ridicolizzare, era un punto di vista e poi era ovviamente anche uno scherzo. Remo, abbiamo rimediato un po', pronto? È chiarissimo che sì. La volontà che abbiamo, diciamo, cerchiamo di dimostrare nell'ambito, diciamo, della vita sociale, della vita lavorativa, sia, diciamo, sia di tutto rispetto, e questo mi permetto di doverlo innalzare, questo rispetto, perché noi continuiamo una volontà federalista. Siamo stati, sì, a quel signore di Modena, dica pure che i soldi dei parlamentari della Lega li pagano anche gli imprenditori che votano la Lega e che pagano le tasse, e perciò i soldi dei parlamentari della Lega li pagano anche i cittadini che non votano per la Lega. Comunque, grazie Remo, ha detto quello che voleva dire. Giancarlo da Frosinone, qua parliamo dell'aeroporto anche, no? Sì, buonasera. Sì. Buonasera, sono Giancarlo da Frosinone, Ceccano precisamente, in provincia di Frosinone. Sì. Io ero favorevolissimo alla costruzione dell'aeroporto. Diciamo che già Frosinone ha già un aeroporto che è adibito ad una scuola di volo, il 72° Stormo, e quindi ha già ha un territorio vasto occupato da questa scuola di volo. Quindi non vedo per quale motivo non si possa investire per adeguarla ad uno scalo civile, visto che Frosinone ha un'utenza grandissima, i paesi limitrofi sono tantissimi, abbiamo Ceccano, Alatri, Anagni. Ho capito, però lei si rende conto che l'obiezione viene naturale, cioè in Italia ci sono già tanti aeroporti, molti piccoli che hanno pochi passeggeri, quindi sono una spesa inutile a carico dei contribuenti. Andare a aggiungere un altro aeroporto, insomma, quando poi si leggono i nomi dei politici che entrano nei consigli di amministrazione, che fanno battaglie per essere, diciamocelo, no, rieletti, insomma, qualche dubbio viene. Poi, sa, io non conosco la realtà di Ceccano e dei paesi intorno a Frosinone. Un ascoltatore dice forse serve per il Principato di Filettino l'aeroporto di Frosinone. Lei ha conoscenza di questa? Sono a conoscenza, tra l'altro anche il sindaco lo conosco benissimo. Allora, facciamo ma sicuramente tutto. Questo è un buco nell'acqua. Anche questo sono chiacchiere da chiacchiere di mercato. Anche l'aeroporto però sembra un po' a me sì, sicuramente anche questa è un'altra chiacchiera, visto che siamo stati deturpati di tutto a Frosinone. Noi avevamo un ospedale a Ceccano dal 1400 che adesso ce l'hanno chiuso, proprio la Polverini ha firmato il certificato di morte. Abbiamo l'ospedale di Frosinone che sta esplodendo perché non ci sono posti letto, abbiamo avuto una riduzione. Speriamo che questa dell'aeroporto sia una cosa seria e non siano le solite chiacchiere da politicante del giorno, i quali vengono qui a Frosinone, si prendono i nostri voti e poi ci lasciano in balia, ci lasciano considerare come la provincia di Frosinone una delle ultime città come qualità della vita. Quindi... Va bene, grazie, staremo a vedere se è una cosa seria l'aeroporto di Frosinone o solo chiacchiere. Gianni da Verona, prego. Sì, buonasera. Sì. Dunque, no, non avendo sentito un strano ricordo qui nel telefono. Forse deve abbassare la radio, non lo so. C'ha la radio accesa? Ho spento la radio, però come mi porta? E non avendo sentito che non c'è nessun taglio, diciamo. Guarda, la sentiamo male, mi dispiace, non è destino, la sentiamo la prossima volta. Alessandro da Milano. Buonasera. Prego. Ma io non sapevo che Malpensa fosse fallita, dal super esperto signor Scalia ho preso anche questo. A me sembra che sia fallita l'Alitalia, non Malpensa. Malpensa sta andando molto bene, e in quanto a collegamenti da Milano ce ne sono numerosissimi. Prendi il treno alle nord, qui vicino, qui in centro a Milano, arrivi immediatamente col Malpensa Express, arriva anche con la Freccia Rossa, arriva con le Ferrovie dello Stato. Beh, però è vero tutto. Che c'è, andando a Malpensa si nota un po' di abbandono, perché non è quello che ci si aspettava Malpensa, non è quel grande scalo per cui era nato. Adesso, poi magari in futuro rinascerà. Per precisare, ho sbagliato secondo me l'Alitalia quando non l'ha voluta fare come Uber. Infatti l'Alitalia, per usare una terminologia montiana, avrà il break even point probabilmente nel 14. Malpensa sta andando benissimo, tanto è vero che c'è un momento. Va bene, però non apriamo il dibattito su Malpensa, anche perché non c'è tempo, abbiamo esaurito il tempo per questa sera. Io faccio gli auguri a tutti gli ascoltatori di buon anno, ci sentiamo naturalmente l'anno prossimo con la Zanzara, ma anche con Radio 24. Filippo, ti faccio gli auguri un'altra volta, e stasera solo due. Auguri a Filippo Aureggi.